Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Anche oggi la crisi degli immigrati in primo piano, come avrete sentito nei giornali radio, migliaia di persone che stanno cercando di raggiungere il centro dell'Europa dopo aver lasciato la Grecia, e lo fanno in molti cercando di arrivare alla stazione di Skopje e da lì proseguire verso la Serbia, poi l'Ungheria e così via. Abbiamo visto le informazioni su quanto sta accadendo in Macedonia, dobbiamo ancora ricostruire nel dettaglio i fatti, così una portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini. Siamo in contatto con le autorità macedoni e con l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, così il comunicato in cui l'UE dichiara il suo sostegno e promette di rafforzare il sostegno materiale a Skopje, dunque alla Macedonia, mentre è in via di finalizzazione per settembre un programma con Turchia e paesi balcanici per l'immigrazione. E ora, restando in zona, parliamo delle dimissioni del premier greco Alexis Tsipras, l'annuncio di nuove elezioni. Per noi, dice, non sono state una sorpresa. Così il portavoce della Commissione UE, Annika Breithard. Sentiamo il servizio. Se le dimissioni di Tsipras non sorprendono né preoccupano Bruxelles, dove la Commissione si è detta convinta che non ci siano rischi per l'attuazione del terzo programma di salvataggio, lo scossone è stato forte ad Atene. I ribelli del partito dell'ex premier, quelli che si opposero alle riforme concordate proprio per quel salvataggio, hanno colto la palla al balzo per fondare un nuovo gruppo parlamentare che sarà il terzo più numeroso del Parlamento e si prepara a diventare partito con il nome Unità Popolare. Regista dell'operazione è l'ex ministro dell'Energia, Lafazanis. Tra i 25 che lasceranno Syriza, invece, non figurano né l'ex ministro Varoufakis né la presidente della Camera Costantopoulou, che votarono comunque contro l'accordo di Tsipras con l'UE. Nel frattempo, il presidente della Repubblica Pavlopoulos ha attribuito a Vangelis Meimarakis, leader di Nea Dimokratia e capo della seconda forza politica del paese, il mandato esplorativo per formare un nuovo governo entro 3 giorni. Ma le elezioni anticipate a fine settembre sembrano assai più probabili di un successo di Meimarakis. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ancora nei Balcani la comunicazione è arrivata poco fa: il prossimo round del dialogo Kosovo-Serbia, facilitato dall'UE, si terrà il prossimo martedì 25 agosto a Bruxelles. Lo comunica il servizio diplomatico dell'Unione Europea. A parteciparvi i premier di Pristina e di Belgrado, Issa Mustafa, Aleksandar Vučić, e l'alto rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini. Al centro dell'incontro la finalizzazione dell'attuazione degli accordi su energia, telecomunicazioni, associazione, comunità delle municipalità serbe e libertà di movimento, oltre ad affrontare lo spinoso tema del ponte di Mitrovica. E con questo è tutto per questa edizione. Europa 24 torna naturalmente la prossima settimana, e dunque un augurio di un ottimo fine settimana a tutti voi. A presto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.